Enrico, i libri, secondo Pennac, ci vengono sempre suggeriti dalle persone amiche. Qual è l'ultimo libro che ti hanno consigliato e chi te l'ha consigliato? Ma l'ultimo libro che mi hanno, che è una cosa un po' strana, nel senso che quando vado a fare i concerti mi regalano delle cose i fan, che io metto da qualche parte e poi riprendo quando è finita la tournée. E quindi non so chi me l'ha regalato, però c'è un libro che si chiama Felicità di Will Ferguson, che è un libro molto interessante. Ferguson è un canadese, ipotizza un mondo nel quale uno scrittore riesce a scrivere un libro di questi manuali di autoaiuto, per il quale tutta la gente è felice, ma è felice in una maniera asettica, e naturalmente le industrie crollano perché tutti i bisogni legati alla felicità vengono a mancare. E quindi insomma un libro molto di quelli in cui si sorride e si riflette. E tu qual è l'ultimo libro che hai suggerito e a chi soprattutto hai dato questo suggerimento? A me piacciono le biografie. C'è un libro molto interessante che si chiama Life di Keith Richards, che è il chitarrista dei Rolling Stones, che ho consigliato a dei miei musicisti, amici musicisti, perché è un libro scritto bene e che naturalmente è la testimonianza, insomma, di un'epoca avventurosa, irripetibile, scriteriata, folle, eccetera.